Che bello essere con voi, siete famiglia, siete casa, ormai per noi pieno Vangelo è agosto. Agosto, cosa fai ad agosto? Ovvio vado a predicare la pieno Vangelo, cioè è normale. Grazie per la fiducia, è vero l'anno scorso si è rotto, proprio invece quest'anno ce l'abbiamo fatta. Grazie per la fiducia, non è scontato, è bello. Voglio proprio ringraziare te, pastore, per questo legame che ci unisce ormai da tanto tempo. Ringrazio Dio per l'amicizia che abbiamo proprio con Sara, Vito, col vostro team pastorale, con tutti quelli che lavorano. Sono stati anni anche impegnativi, ok? Sia per voi come chiesa, poi si è messo pure il Covid. Eppure siamo ancora qua, ancora più forti. So che il vostro campeggio è stato bellissimo. Quanti sono stati in campeggio? Ok, è stato molto bello, sono eventi unici, sono contento che abbiate vissuto questo, credo che sia molto molto importante. Grazie anche per l'ospitalità che ci darete a settembre, credo, per il Back to School. Anche qua siamo tornati, dopo ci alterniamo tra Bari e Modugno, quindi saremo qui per fare questo evento per i ragazzi, per tutti gli studenti cristiani, e siamo felici perché cerchiamo dei luoghi dove c'è la presenza di Dio, perché quando tu entri, io credo molto in questo, quando tu entri in un posto dove c'è già la presenza di Dio, è lo Spirito Santo che inizia ad agire e tu non devi fare nulla, altrimenti diventa molto complicato. Io predico spesso in tanti posti anche che non sono chiesa, non chiesa come istituzione, ed è diverso, credetemi, è totalmente diverso. Quanti si sono battezzati? Perché non ho visto le mani alzate. Grandissimi ragazzi, bravi, bravissimi. Non so se, penso sicuramente farete un applauso, fate un applauso a questi ragazzi che sono lì in tribuna, che lavorano su e curano l'aspetto tecnico, media o altro. Grandi ragazzi, non siete invisibili. Noi vediamo e grazie per il vostro servizio, per tutti quelli che servono qui nella lode. Fate un applauso, era da tanto che non sentivo Fabio e Melissa qui in chiesa, sempre grandiosi, unici. E tutti quelli che servono dietro le quinte. È importante perché la Chiesa è fatta di queste cose. Non smettete mai di ringraziare. E non permettete che il vostro ringraziamento diventi qualcosa di comune, ma fatelo sempre con un cuore pieno. Pieno di meravigliatevi delle piccole cose, cercate di meravigliarvi di quello che Dio fa ogni giorno, anche se ripete gli stessi miracoli che sono successi ieri nella vostra vita. È questo che rende la nostra fede viva e la nostra fede attiva. Siete d'accordo? Una volta lo Spirito Santo mi ha affermato e mi ha detto: smettila perché stai rendendo comune ciò che è santo nella tua vita. E questo vale per la lettura della Bibbia, per la mia preghiera ogni giorno. E stavo facendo questo errore. Ci sono delle stagioni in cui ricado nel fare questo errore. Una vita cristiana vissuta in maniera meccanica è una vita fake. Ok? È come le nostre vite sui social, non corrispondono mai a quelli della vita reale. Ed è importante che noi viviamo una vita vera e reale. Sì? Con tutte le nostre imperfezioni, perché insomma ne abbiamo un bel po'. Siete pronti per la parola di oggi? Il titolo di oggi è Come vivere una vita miracolosa. Quanti vogliono vivere una vita miracolosa? Io voglio tuffarmi in una vita piena di miracoli, piena di miracoli. Ho scelto anche un brano estivo, ok? Perché c'è acqua e pesci, quindi almeno rimaniamo sempre in tema. Chiudi i tuoi occhi, un attimo, chiudi i tuoi occhi e fai questa preghiera tu per la tua vita. Spirito Santo, io lascio ogni tipo di giudizio, pregiudizio, stanchezza, limite o problema, ansia nella mia mente. Decido di ricevere la tua rivelazione nella mia vita. Io apro il mio cuore e ti do autorità. Dillo con la tua bocca, Dio, io ti do autorità. Entra con la tua parola e trasformami in maniera irreversibile. Non voglio emozionarmi soltanto, desidero essere trasformato dalla tua parola. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. Vai, allora, la storia di oggi si trova in Luca capitolo 5. Leggiamo i primi versetti, li leggiamo insieme, va bene? Ci siete? Sono qua, ecco. Mentre egli stava in piedi sulla riva del lago di Gennesaret e la folla si stringeva intorno a lui per udire la parola di Dio, Gesù vide, cosa vide? Cosa vide? Due barche ferme a riva. Da est i pescatori erano smontati e lavavano le reti. Montato su una di quelle barche, che era di Simone, lo pregò di scostarsi un poco da terra. Poi, sedutosi sulla barca, insegnava alla folla. Come ebbe terminato di parlare, disse a Simone, non lo so quanto duravano le prediche di Gesù, ok? Duravano abbastanza da produrre molta fame nella gente, quindi probabilmente. Disse a Simone, prendi il largo e getta le reti per pescare. E Simone gli rispose, maestro, tutta la notte ci siamo affaticati e non abbiamo preso nulla. Però, secondo la tua parola, getterò le reti. E fatto così, presero una tal quantità di pesci che le reti si rompevano. Allora fecero segno ai loro compagni dall'altra barca di venire ad aiutarli. Quelli vennero e riempirono tutte e due le barche, tanto che affondavano. Simon Pietro, veduto ciò, si gettò ai piedi di Gesù, dicendo, Signore, allontanati da me perché sono un peccatore, perché spavento aveva colto lui e tutti quelli che erano con lui per la quantità di pesci che avevano preso. E così pure Giacomo, Giovanni, che erano soci di Simone. Allora Gesù disse a Simone, non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini. Ed essi, tratte le barche a terra, lasciarono, guardate come termina questa storia, lasciarono ogni cosa e lo seguirono. Lasciarono ogni cosa e lo seguirono. Quanti sono i Vangeli nella Bibbia? Rispondetevi, se no chiedo un offio. Quanti sono? Quali sono? Matteo, Luca, Giovanni. Matteo e Marco parlano direttamente della chiamata dei discepoli. Se voi andate a leggere all'inizio, è Gesù che chiama i discepoli. Tu vieni, tu no, tu torna a casa, tu vieni, ok, ho pregato per te, tu vieni a servirmi, lascia tutto. Matteo, questo, quella, chiama direttamente i discepoli. Solo Luca racconta della pesca miracolosa, nella chiamata di questo gruppo di lavoro, perché erano dei soci che lavoravano insieme, ok? Gesù conosceva Pietro, perché nel capitolo precedente, al 5, Gesù aveva guarito la suocera, quindi Pietro non so se aveva un cuore grato verso Gesù o meno, però lo conosceva di sicuro, ok? Che cosa fa Gesù? Si avvicina lì sulla spiaggia e dice semplicemente, in realtà non dice quasi nulla, si avvicina, gli dice spostati e si siede sulla sua barca. Immagina, tu sei nella tua macchina, sei seduto e Gesù dice spostati. Lui si siede e inizia a guidare con la tua macchina. Insomma, è una cosa un po' fastidiosa. E quello che fa Gesù è un po' questo, anche perché Pietro stava lavando le reti, aveva pescato tutta la notte, ma in realtà non aveva preso nulla, quindi stava lavando tutto quanto. Immagina anche il sentimento di frustrazione, di stanchezza, non ho preso nulla, stava lavando tutto quanto. Cos'è che fai quando hai finito una giornata di lavoro, in cantiere o in qualsiasi posto tu sia? Riposarti un pochettino, stare tranquillo. No, Gesù viene e gli dice spostati, mi metto io qua. E si siede. Si siede e Pietro è lì che ha dovuto aspettare così che Gesù finiva di predicare. Non era fastidioso, era molto più che fastidioso. E lo Spirito Santo mi faceva vedere che ci sono delle persone oggi che stanno lavando le reti della propria vita perché vogliono mollare. Le cose non sono andate come dovevano andare e alcuni si sono fermati dopo una notte molto lunga di impegno, di sforzo, di sacrificio, e si sono fermati lì e hanno detto ok, non è andata come doveva andare, torno a casa, lascio tutto e non faccio più nulla. Io sento che ci sono alcune persone che stanno vivendo una sorta di rassegnazione mista a frustrazione, e lo Spirito Santo oggi vuole aiutarti a capire come vivere una vita miracolosa. Miracolosa. Non ha senso vivere da cristiani senza vivere una vita miracolosa. Non esiste in realtà il cristianesimo senza una vita miracolosa, cioè proprio non è assolutamente logico. E nella storia c'è scritto questo, che Gesù vide due barche, sì? Gesù vide, ma ne scelse una. Gesù vide due barche, ma ne scelse una. Gesù vide due barche, ma ne scelse una. E ho iniziato a pregare: Dio, ti prego, se tu ti trovi davanti a una scelta, scegli me. Dio, ti prego, se tu ti trovi davanti a una scelta in questo tempo storico, scegli me. C'erano due barche uguali, nella stessa posizione, che facevano parte probabilmente dello stesso gruppo, eppure Gesù ne scelse una. Ma la cosa che mi ha affascinato di più di questa storia, mamma mia, Gesù ha scelto una barca vuota. Gesù ha scelto una barca vuota. A volte noi siamo lì che cerchiamo di presentare a Gesù una barca piena di pesci. Ehi Gesù, vieni nella mia barca, guarda quanti pesci ci sono. Vieni qua, vieni dal boss, vieni da Don Peter. Gesù, vieni qua, guarda qua quanti pesci ci sono. Invece no, Gesù si è avvicinato ed è salito su una barca vuota. Gesù vuole sedersi sulla tua vita anche se è vuota. Gesù non sta aspettando le tue performance. A volte siamo noi che cerchiamo di, abbiamo questa mania del perfezionismo, no? Parliamo di grazia, ma in realtà a volte non la sappiamo vivere, poi la grazia. Ma Gesù aspetta che noi gli presentiamo la nostra barca vuota per poi lui riempirla. Invece noi aspettiamo che la nostra barca sia piena per poi offrirla a lui. E cos'è che succede? Non succede niente, perché difficilmente, anzi impossibile, che la nostra barca sia riempita in questo modo senza di lui. Lui non cerca i tuoi pesci. Lui cerca lo spazio nella tua vita. Gesù sta cercando lo spazio nella tua vita, ma a volte siamo troppo impegnati e lui non riesce a trovare delle barche vuote. Perché ho chiamato questo messaggio, ok? È un messaggio che voglio lasciare. Mentre leggevo questa storia, una serie di principi, mi sono tuffato dentro la storia e lo Spirito Santo mi diceva: guarda questo. Io voglio semplicemente trasferirveli in maniera molto molto semplice. Qua non si tratta della pesca miracolosa. L'obiettivo non era la pesca miracolosa. Il messaggio si chiama vivere una vita miracolosa. Tu immagina, Pietro non avrebbe mai immaginato che dopo quel momento la sua vita sarebbe cambiata di punto in bianco. Di punto in bianco. Da quel momento in poi lui avrebbe vissuto i 3 anni più straordinari della sua vita. Da quel momento in poi lui ha iniziato a vedere ciechi vedere, zoppi camminare, morti risuscitare. Ha visto dei miracoli che non ha mai visto prima. Pensate, in un'ora, quando la Bibbia dice all'improvviso la tua vita cambia, quando lui si siede nella tua barca vuota, all'improvviso la tua vita cambia. Ma perché la mia vita non sta cambiando? Perché tu sei in riva a mare ad ascoltare le prediche, mentre Gesù sta cercando lo spazio nella tua vita per sedersi e portare a largo la tua vita. Non basta soltanto ascoltare, ok? Si tratta di iniziare ad essere inviati da Dio. C'erano altre barche lì, Pietro avrebbe potuto dire: no, guarda, io sono troppo occupato. Ma guarda, Gesù, hai visto che sto lavando le reti? Guarda, lascia stare. Gesù, guarda, già la mia vita da quando sei entrato in casa mia è cambiata. Quindi, fila, ok? Fila. Vai da un'altra barca. L'avrebbe potuto fare Pietro? Certo, ovvio, Dio ci dà libertà. Gesù sarebbe passato oltre. Tutti questi ragazzi, questi discepoli, che dopo sono diventati discepoli, avevano fatto tutto quello che dovevano fare. Hanno lavorato duro, hanno preparato le reti come dovevano fare. Erano stanchi, hanno lavorato tutta la notte. Era giusto riposare o no? Ovvio, se tu lavori tutto il giorno, è giusto riposare? Certo. Assolutamente, è anche logico riposare. E infatti Gesù, secondo me, in questa parte usa un linguaggio cordiale e tranquillo. Scusa Simone, ti fai un po' più in là, ma un po', ok? È come quando il pastore ti chiede: scusa, puoi spostare quella sedia? Mo che ci sei, non è che le puoi togliere tutte. Ok, scusa Simone, puoi farti un po' più in là. E fino a quando Gesù dice a Pietro: fatti un po' più in là, lui non dice niente. Proprio non c'è scritto niente. Lui c'è scritto che si sposta un po' e Gesù si siede sulla barca e inizia a parlare, inizia a predicare. Dopo che hai iniziato a predicare, un'ora, due ore, tre ore, non lo so, ok, non penso che avessero lo schermo come noi, Gesù ha iniziato a predicare e dopo che finisce di predicare, dice così: come ebbe terminato di parlare, disse a Simone, qua cambia il tono, prendi il largo e getta le reti. Pietro era lì, immagina, Pietro. Pietro, dimmi, finito, finalmente. Ok, possiamo andare, prendi il largo. No, no, mo stai esagerando. Allora, maestro, noi abbiamo pescato tutta la notte e non abbiamo preso nulla. Maestro, tu fai il falegname e fai l'aquila di legno, ok? Fai tutte le figure da mettere sui mobili. Ok, grazie che l'hai portata a mia suocera, quella mamma ha messo quest'aquila di legno sul comò e non c'è neanche spazio per vedermi allo specchio. Io sono un pescatore, io ho dei soci, io sono bravo, non mi puoi dire questo. Poi secondo me ha visto gli occhi di Gesù, sai, da gatto con gli occhioni. Vabbè, però se lo dici tu, anzi no, secondo me, questa è secondo la mia visione, la suocera gli ha fatto così dietro a Pietro. Quello si è girato e ha detto, vabbè, però Gesù, se lo dici tu, se lo dici tu, andiamo, vai, secondo la tua parola, io getterò le reti. Ed è bellissimo perché quando tu vuoi arrenderti, che lui arriva e ti dice, guarda che non devi arrenderti. E quando tu hai finito, che lui arriva e ti dice, guarda che tu hai finito, ma ora io inizio nella tua vita. Quindi fai così, prendi le tue reti e torna di nuovo in mare. Pietro ha fatto tutto quello che lui doveva fare umanamente. Non stiamo parlando di errori. Lui è stato un professionista, ok? E quello è il problema, a volte diventiamo professionisti del Vangelo. Ma Dio non vuole che diventiamo professionisti del Vangelo. Anche perché con tutti i migliori sforzi, Pietro non ha prodotto assolutamente nulla. Però è quando Gesù gli disse, prendi il largo, che lui inizia a fare della resistenza. Prima non ha detto niente, perché prima Gesù chiede a Pietro un favore. Dopo invece Gesù dà a Dio una missione, e dà a Pietro una missione. E Gesù all'inizio ti chiede un favore. Dopo inizia a darti una missione e la nostra vita inizia a prendere senso quando noi ci muoviamo all'interno della nostra missione. Molti stanno pensando di avere una missione semplicemente perché vengono ogni domenica in chiesa o solo perché hanno partecipato al campeggio o solo perché leggono un capitolo di Bibbia al giorno e quando lo finiscono fanno, ah, mamma mia, incredibile. Mi sento così, mi sento Mosè con la luce che risplende dal volto, ok, per questo capitolo. Spostati un po' contro, prendi il largo. Perché è successo questo? Perché gli dice prima spostati un po' e poi gli dice prendi il largo. Prima Gesù stava predicando sulla terra ed era lì fermo e tante persone, noi vogliamo i numeri. Tante persone ascoltavano e poi dice a Pietro prendi il largo. Perché Gesù ha detto a Pietro prendi il largo? Seguitemi, ci sono tanti messaggi, rivelazioni, benedizioni che noi possiamo vivere solo quando ci allontaniamo dalla terra. Molti non vivono quello che Dio ha preparato per la propria vita perché continuano a rimanere sulla terra, a continuare ad ascoltare. Ma è solo quando ti stacchi dalla terra e decidi di accettare la missione che Dio ti sta dando e prendi il largo che la tua vita inizia a prendere una piega diversa. Il miracolo è avvenuto quando lui si è staccato dalla terra. Noi non possiamo vivere il mondo sovrannaturale rimanendo con una cultura terrena e terrestre. Non è possibile. È per questo che dice Gesù a Pietro, allontanati da chi ha questa mentalità terrestre. Tu devi allontanarti da chi ha una mentalità terrestre, prendere il largo e ritornare poi sulla terra soltanto per condividere le benedizioni che io ti sto dando lì da quella parte. E questo è quello che Gesù gli stava dicendo. Non ti preoccupare, io ti faccio ritornare, ma solo per condividere la vita miracolosa che tu stai vivendo. E questo è il problema molte volte nostro. Fin quando si tratta di ascoltare, tutti siamo felici e contenti. Ma quando si tratta di essere mandati, la nostra reazione cambia assolutamente. Tutti erano disposti ad ascoltare la predica? Neanche Pietro era quasi disposto. Poi non so neanche come ha convinto tutti gli altri, tutti gli amici, ad andare. E io ho imparato questo, che tu sarai benedetto fuori dalla tua zona di comfort. La nostra benedizione, la benedizione che Dio ha preparato, non può rimanere nella nostra zona di comfort. Se la tua comodità è più importante della sua benedizione, allora non riceverai mai la sua benedizione. Perché la benedizione non può vivere nei parametri della tua comodità terrena. La benedizione di Dio è qualcosa che va oltre il nostro concetto umano. Non può. Ah, ma quindi non possiamo stare comodi? Assolutamente, non sto dicendo questo. Ma quando tu cerchi la tua comodità, perderai la tua missione. Quando invece tu cerchi la tua missione, Lui si occuperà della tua comodità e farà in modo che la tua vita sia piena di prosperità. E molti non vivono la prosperità perché sono attaccati alla propria comodità. Anziché ricercare la sua missione e tuffarsi nella sua prosperità. Prosperità. Quando parlo di prosperità non sto parlando di ricchezza, no money. Servono anche i money, ok? I soldi. Ma sto parlando di prosperità d'animo, prosperità nelle emozioni, prosperità nello spirito, prosperità nei pensieri, prosperità in tutta la nostra vita interiore. Perché c'è gente che ha poca ricchezza, ma è prospera più di chi ha tantissime ricchezze. E noi è quello che dobbiamo ricercare. Parola d'ordine? Ubbidire. Pietro non aveva voglia. Non è una questione di emozioni. No, non me la sento. Ma se vuoi puoi tapparti pure le orecchie, ti dice lo Spirito Santo, non devi sentire. Devi ubbidire. E ubbidire fa solo rima con capire, non c'entra niente. Non è una questione di capire. Stiamo parlando di questi pescatori che sapevano tutto quanto. Perché Pietro ha reagito in quel modo? Perché, ora, io non sono un esperto pescatore, ok? Andavo da piccolino con mio papà. Però solitamente dormivo di notte quando lui mi chiamava soltanto quando prendeva i pesci o i polipi. Mio papà prendeva un sacco di polipi. E i pesci di notte salgono più in superficie, ok? Tendenzialmente, mentre in genere di giorno scendono ad una profondità maggiore. Quindi con la rete hai difficoltà a prendere questi pesci. E molte volte lo Spirito Santo ti dirà di fare delle cose che non hanno assolutamente molto senso. Voi pensate che Gesù aveva bisogno della barca di Pietro? Sì o no? No. Era Pietro che aveva bisogno di Gesù nella sua barca. E io penso che stamattina molti di noi hanno bisogno non solo di stare ad ascoltare Gesù, ma di far sedere Gesù sulla sua barca e poi di prendere il largo con Gesù. È interessante perché Gesù rispetta il nostro processo. Non ti dice subito prendi il largo. Prima ti dice spostati un pochettino. E forse lo sta facendo con questa parola. Ti sta spostando un pochettino. E dopo alla fine ti dirà prendi il largo con tutta la tua famiglia, ma fai in modo di portare me. Gesù, non hai capito, io non ho preso nulla tutta la notte. Gesù, guarda che questa gente l'ha visto che io non ho preso nulla. Non puoi chiedermi questo. Gesù, mamma mia. È come se Gesù gli stesse dicendo, Pietro, ascoltami. Portami dove hai fallito. Portami nello stesso posto in cui tu non hai avuto dei risultati. Perché è lì che voglio benedirti. Io voglio benedirti nello stesso posto in cui tu ti sei vergognato. Riportami lì e ti farò tornare qui, non più con la vergogna che hai portato qui su questa riva. Quando Gesù sale sulla tua barca, con Lui devi assicurarti di andare nel posto dove hai fallito. Il problema è che molte volte noi ci vergogniamo di portare Gesù dove abbiamo fallito, ok? È come quando arrivano degli ospiti a casa e noi abbiamo delle stanze in disordine, sporche, e dice ai tuoi figli, chiudi qua, chiudi il soggiorno, chiudi la cucina, chiudi tutto qua, lascia soltanto, solo in cucina, se vogliono andare, no, il bagno guasto, ok? Non possono andare in bagno, fuori ci sono le piante, se vogliono vanno là, ok? E sembra che tutta la casa in ordine perché la cucina è perfetta. E molte volte la nostra vita è così, soltanto che chiudiamo le stanze in disordine. Prendi i panni, buttali lì, chiudi la porta e poi guai, il film horror, non aprite quella porta. Ok, succede. E invece Gesù ti sta dicendo, portami dove hai fallito. Io voglio venire con te dove hai fallito. Io voglio venire insieme a te dove tu hai provato quella vergogna. Io voglio venire con te dove ti hanno lasciato solo e dove tu farai fatica a ritornare perché quel posto ti sta ricordando i tuoi fallimenti. E io è lì che voglio fare un miracolo nella tua vita. E dice che presero una grande quantità di pesci che le reti si rompevano. Le reti si rompevano. Ricordate, il miracolo è avvenuto solo quando si sono staccati dalla terra. Solo quando si sono staccati dalla terra. Io immagino Gesù, ok? Gesù, Pietro butta le reti di nuovo e Gesù inizia a chiamare. Ragazzi, forza, chiama i pesci, ok? Ragazzi, è il vostro momento. Forza Nemo, prendi tutti i tuoi amici, portali tutti. E Nemo inizia a chiamare tutti gli amici. Ragazzi. E Gesù dice, ragazzi, forza, aiutatemi e vi giuro, anzi no, io non giuro, ma io prometto che voi entrerete nella Bibbia. Luca capitolo 5. Forza ragazzi, tutti quanti, tutti nella rete. Se volete entrare nella Bibbia, entrate nella rete. E tutti questi pesci iniziano, si buttano nella rete e la rete iniziava a rompersi, perché l'abbondanza di Dio romperà sempre i tuoi schemi mentali, l'abbondanza di Dio romperà sempre le tue abitudini, romperà sempre la tua meccanicità, romperà sempre il tuo professionismo cristiano. L'abbondanza di Dio ti metterà dei dubbi, perché ti tufferai sempre in qualcosa che tu non riuscirai a spiegare con la tua intelligenza. È questo che fa l'abbondanza di Dio. Perché sennò che senso ha? Scusami, tu mi stai benedicendo e la rete si sta rompendo. È sempre un sovrannaturale che ama sempre qualcosa di più sovrannaturale. Invece noi avremmo detto, la rete si sta rompendo, hai visto? Non era Dio. Sicuro. Anziché andare a dormire, non era Dio, ancora una volta, ho ascoltato male. E invece qua dice che fecero... Quando succede qualcosa nella tua vita è perché Gesù vuole allargare quello che sta facendo. E qua dice che Pietro inizia a chiamare tutti gli altri. Ragazzi, venite ad aiutarci. Questo è il risveglio. Il risveglio avviene quando avremo così tante persone che non ci preoccuperemo del nome della chiesa a fianco, ma chiameremo quel pastore e diremo, oh guarda, c'ho 500 persone, posso mandartele che non c'ho spazio qui. Quello dice, manda, il pastore dell'altra chiesa ordina 500 cornetti che stanno arrivando dalla Pieno Vangelo, 500 persone, questo è risveglio. E lui chiama i suoi amici perché aveva bisogno di aiuto. Dio benedirà così tanto la tua vita che le persone vicino a te saranno benedette. Vi ricordate Paolo e Sila negli Atti, mentre pregavano in prigione? La Bibbia dice, tutte le porte furono aperte. Perché? Ho cantato io. Non ho capito. Ho cantato io e viene benedetto lui. Ci sono tutte le volte che io ho questi pensieri. Cioè non ho capito, ho digiunato io e mangia quello. E viene pure benedetto. Perché quando Dio benedice noi, lo fa in maniera talmente esagerata che tu sei costretto a condividere. Perché nel momento in cui non condividerai, perderai anche quello che Gesù ha dato alla tua vita. Sei obbligato a condividere. E sto per finire. E qua dice che le barche hanno iniziato ad affondare. Le cose di Dio che non capiamo. C'è un miracolo o no? Gesù, io non ti ho mai chiesto di farmi morire. Cioè io ho lavorato, non ho preso nulla e mi stai facendo pure affondare. Cioè non solo non ho lavorato, ma ne devo tornare pure a nuoto. E sto perdendo pure la barca. Guarda, lo sapevo, Dio non esiste. Perché poi noi arriviamo sempre alle conclusioni, no? Quelle drammatiche, quelle esagerate. Questo è lo Spirito Santo che agisce nella tua vita. Seguitemi. Io lo sto imparando nella mia vita. Quando lo Spirito Santo inizia ad agire nella tua vita, ti sembrerà di perdere il controllo, perché è Lui che sta cercando di prendere il controllo della tua vita. Allora tu sei lì, che tieni il volante della tua vita, e lo Spirito Santo dice, dammi il volante, tu, no, è mio il volante, no, è mio il volante. Allora, sai, cerchi di affondare perché lui sta cercando di prendere il controllo, e fino a quando tu non lasci il volante della tua vita, lui non potrà fare assolutamente nulla. Fidati di Dio. Fede, l'ingrediente per una vita miracolosa è la fede. E fede è credere che Dio sia totalmente affidabile anche quando pensi che Lui non ci sia nella tua vita. Questo significa avere fede. Avere fede, secondo me la fede più grande e accettare più il silenzio di Dio che le parole che ci dice. E noi non sappiamo aspettare il silenzio di Dio, ma noi non sappiamo proprio aspettare in generale. E Simon Pietro, veduto ciò, ha visto tutto questo caos, i pesci gliel'hanno messi nell'altra barca. Guardate che bello. La barca che aiuta Pietro era la seconda barca vuota che Dio non aveva scelto. Qualsiasi sia la tua scelta, Dio farà in modo che tu possa rientrare sempre nel piano suo, se tu sarai disposto ad ubbidire alle follie delle autorità spirituali che Dio ha messo nella tua vita. Dio non ti cancella dal suo programma. Guarda la grazia. A volte dice: ma io sono parcheggiato fermo. Aspetta, ubbidisci. Osserva quello che succede. Anziché invidiare, quella barca vuota avrebbe detto: oh no, hai visto? Dio, Gesù ha scelto quella barca. No, lasciamoli affondare. Anzi, così non prendono tutti questi pesci, no? Hanno raggiunto. Che meraviglia. Questa è chiesa, eh? Questa è chiesa. E mettere da parte l'invidia, mettere da parte l'orgoglio. Mi stavo chiamando ragazzi. Vabbè, ragazzi. Sono sentimenti con cui lotto anche io. E lo Spirito Santo mi dice: mettili da parte se vuoi vivere una vita miracolosa. E Pietro si ferma e dice: Signore, Signore, allontanati da me, perché io sono un peccatore. Vi ricordate che cosa ha detto Pietro quando Gesù gli ha detto: prendi il largo? Cos'è che ha detto? Lo ha chiamato maestro. Qui lo chiama Signore. La prima cosa che cambierà quando inizierai a vivere una vita miracolosa è l'idea che tu hai del tuo Dio, di Gesù. È facile avere un Gesù maestro che insegna, che parla, che mi dice quello che devo fare. È diverso poi avere un Gesù Signore che mi dice quello che devo fare e mi spinge a fare quello che devo fare. Quello che cambia nella nostra vita è la signoria di Gesù. È la signoria di Gesù. E poi è fantastico perché dice: e tratte le barche a terra, lasciarono ogni cosa e lo seguirono. Questa roba è quella cosa che mi sconvolge di più. Davvero mi sconvolge di più. Cioè, tu mi benedici, mi fai un miracolo. Perché fai quel miracolo? Perché loro non avevano preso nulla e Gesù gli dice di andare via dalla terra per dire: ora ti faccio un miracolo così grande che tu potrai usare tutti questi pesci per venderli e vivere della benedizione che io ti ho dato. E loro lasciarono tutto quello che avevano preso e seguirono Gesù. È incredibile come loro non stavano cercando il risultato. Loro non stavano cercando la coppa, loro stavano cercando la presenza. Gesù, allora, la pesca miracolosa non era il risultato di questa esperienza. La pesca miracolosa era un segnale. Gesù è andato da Pietro e gli ha detto: ehi Pietro, ti voglio far vedere quello che può succedere se tu mi segui. Se tu mi segui, ti riempio di tutto quello che vuoi. E Pietro è tornato a terra e ha detto: no, aspetta, quando tu torni dal cielo non riesci a mettere i piedi sulla terra nello stesso modo. Non riesci. Oh, Dio mi ha benedetto. Se tu ti comporti allo stesso modo a casa, hai partecipato soltanto a un bel discorso. Perché quando tu vivi in cielo, fai un'esperienza in cielo e torni sulla terra, tu a casa tornerai in maniera totalmente diversa. Sei d'accordo con me? Ed è meraviglioso perché mi sconvolge quello che Gesù fa, perché Gesù usa delle cose, ok? O meglio, Gesù prende delle cose per ottenere delle persone, usa quelle cose per ottenere delle persone. Noi facciamo il contrario invece, noi usiamo le persone per ottenere delle cose. Quello che c'è nel cuore di Gesù sono le persone. Gesù non sta cercando i tuoi pesci. Guardate, all'inizio non gli interessava che la barca era vuota. Dopo, praticamente, non gli interessava neanche più la barca. Perché il suo obiettivo era le persone. E quello che Gesù vuole fare oggi nella tua vita, e ora pregheremo insieme, è fare in modo che tu possa lasciare ogni cosa, tutto. Lasciare ogni cosa. Non sto dicendo che devi lasciare la tua Jaguar, non sto dicendo che devi lasciare la tua villa a Porto Cesareo, non sto dicendo questo. ok, se mi inviti, ma devi lasciare il tuo dolore, devi lasciare la tua vergogna, il tuo senso di fallimento, lascia anche i tuoi risultati, lascia anche quel cristianesimo, io vengo in chiesa da 25 anni, apprezzo la tua fedeltà, ma non è quella che conta oggi soltanto, è oggi, altrimenti Dio non si chiamerebbe l'Io Sono. È oggi quello che conta. E io voglio incoraggiarti a staccarti praticamente dalla terra. Devi staccarti dalla terra. Ci sono molte vite che sono legate alla terra dal diavolo. Ci sono dei legami spirituali che ci legano e non ci permettono di vivere quello che Dio vuole farci vivere. Legami spirituali. Hai sentito bene? Legami spirituali. E dipende da te staccarti da questa terra. Qual è l'animale che rappresenta il diavolo? Il serpente. Il serpente non può muoversi senza un terreno. Quello che dà forza e attrito a un serpente è la terra. Se tu togli un serpente dalla terra, lui ha finito. Lui non può fare nulla. È per questo che la Bibbia dice che i giovani si stancano, si affaticano. Ma chi ha fede nel Signore, chi spera nel Signore, si alza in volo come le aquile. E cos'è che fanno di solito le aquile con i serpenti? Li mangiano, li prendono e li staccano da terra. Tu puoi vincere il diavolo nella tua vita soltanto se inizi a muoverti in una dimensione sovrannaturale che non è la terra. Se tu rimani sulla terra, tu sarai preso dal serpente. E il serpente può mangiare degli animali molto più grossi di lui. L'unico modo per vincere è andare al largo e spingerti in un'altra dimensione naturale. Cos'è che voglio lasciarti questa mattina? Non puoi combattere su un terreno terrestre. Devi iniziare a vivere in una dimensione spirituale. E molte volte la sottovalutiamo. Molte volte la sottovalutiamo. Ah, è il diavolo che mi sta facendo questo. Tu hai autorità. Perché parli così impaurito? Perché dice, ah, è il diavolo, è il diavolo. Ma perché Dio dov'è? Perché non ti alzi in volo come aquila? Perché continui a stare lì come un uccellino? O come un pinguino? È normale che il diavolo ti mangerà. Perché stai combattendo nel suo territorio. È per questo che Dio, che Gesù ha detto a Pietro, prendi il largo. C'è una differenza, e oggi, stamattina puoi scegliere. O vivere come la folla. Ogni giorno tornava ad ascoltare. Ogni giorno tornava ad ascoltare. Oh, che bello! Ogni giorno tornava ad ascoltare. Viveva anche dei miracoli. Oh, il panino col pesce! Oh, e ogni giorno tornava ad ascoltare. Oppure vivere come Pietro, che ha preso il largo e ha iniziato a tuffarsi in un'altra dimensione. Vuoi vivere una vita miracolosa? Chiudi i tuoi occhi con me, se vuoi. Voglio fare una preghiera per la tua vita. Prenditi solo alcuni secondi. Non lasciarti distrarre dalle benedizioni. Dio, se mi dai questo, io ti servirò. Poi Dio lo fa. E sei talmente concentrato a raccogliere i pesci che Dio ti dà, di dimenticarti il proposito di Dio per la tua vita. Lascia. Oggi non sto parlando di lasciare tutto, casa, macchina. Tu sai cosa devi lasciare. Tu sai quali emozioni, tu sai quali sono quegli oggetti, tu sai quali sono quelle relazioni, tu lo sai. Ma devi prendere il largo. Dio ti sta dicendo, basta camminare con i piedi per terra. Io ti ho chiamato a volare in alto. L'obiettivo di Gesù non sono i pesci, ma la fede. Ma io sto vivendo un periodo brutto, io sto vivendo una situazione difficile. E io ti faccio questa domanda, hai abbastanza fede da iniziare a pescare nonostante la tua frustrazione? Non conosco la tua vita, ma lo Spirito Santo la conosce. E voglio pregare per tutte quelle persone questa mattina che stanno lavando le reti. Hanno fatto tutto quello che dovevano fare. tutto, cristianamente parlando, si sono impegnate, si sono sforzati, lo stanno continuando a fare. Ma è come se i risultati che ci si aspettavano non stanno arrivando, per qualsiasi motivo. Questo è un appello per tutti, non c'è nessuna differenza. Forse sei lì che stai lavando, e quando tu lavi qualcosa è perché vuoi cancellarne il ricordo. E Dio dice: non cancellare il ricordo della tua frustrazione, non cancellare il ricordo del tuo dolore, perché è quel ricordo che si trasformerà in un profumo di gloria nella tua vita. Tu non devi dimenticare, devi soltanto andare avanti. Vai avanti, non devi dimenticare la sofferenza, la devi abbracciare e la devi portare con te. Ma assicurati che ci sono anche io quando sei nella valle dell'ombra della morte, quando le acque ti stanno sommergendo, quando il fuoco inizia a bruciare nella tua vita. Se questa è la stagione che stai vivendo in questa mattina, se c'è frustrazione, rassegnazione, forse anche sfiducia, forse tristezza, perché sei deluso anche da te stesso, voglio chiederti di alzare la tua mano, voglio pregare per te. Se questa è la stagione che stai vivendo, mentre tutti hanno gli occhi chiusi, alza la tua mano. Ci sono tante mani che si stanno alzando. Ognuno di voi ha la sua stagione. Non lo so a che cosa state vivendo, ma Gesù è arrivato stamattina e ti sta dicendo: ehi, sposta un po', fammi entrare nel tuo cuore, sposta un po', fammi mettere ordine. No Gesù, non puoi entrare nella mia stanza. No Gesù, non entrare, perché altrimenti vedi quella roba di cui mi vergogno. No Gesù, non entrare, neanche mia moglie sa queste cose. No Gesù, non entrare perché mio marito non è consapevole. Gesù, non entrare perché i miei genitori se sanno una cosa del genere. No Gesù, è meglio che non entri, perché altrimenti in chiesa succede un casino. Fallo entrare. Entra anche tu con Gesù nel posto dove hai fallito. Entra anche tu nel posto dove ti sei vergognato, dove non hai avuto risultati, dove pensavi di avere successo, ma non era il successo che Gesù aveva pensato per te. Ora hai alzato la mano e ti sei spostato un po', e ora voglio chiederti un'altra cosa, di prendere il largo in maniera profetica, chiedendoti di alzarti. Se tu hai alzato la mano, alzati nel posto dove sei. Voglio pregare per te. Alzati pure nel posto dove sei. E voglio fare questa preghiera insieme a te. Spirito Santo, perché ti ho chiesto di alzarti? Perché ci sono alcuni che sono disposti solo a spostarsi un po', ma non è spostandoti un po' che cambiano le cose. Questo attiverà semplicemente un qualcosa nella tua fede, e saranno le tue decisioni che ora decideranno quanto a largo spingerti. Spirito Santo, io voglio dichiarare ora in questo momento che ogni tipo di frustrazione, ogni tipo di ansia, ogni tipo di paura del futuro possa ora andare via nel nome di Gesù. Io prego che tu possa iniziare a prendere il controllo della vita di queste persone secondo la decisione che loro prenderanno. Io voglio dichiarare pace, io voglio dichiarare un nuovo tempo, una nuova stagione, che tu possa trasformare la loro vergogna in soddisfazione, che tu possa trasformare la loro tristezza in gioia, che tu possa trasformare tutto quello che loro stanno vivendo in qualcosa di talmente grande che loro saranno quasi costretti a condividerla con le altre persone. Io li voglio benedire, io voglio davvero pregarti che tu possa usare le loro vite per benedire questa chiesa in una maniera sovrannaturale, che tu possa usare quelli che fino a questo momento non hanno vissuto una bella stagione, che sono tornati da tutta una notte buia, ma che loro possono ora uscire insieme a te secondo la tua parola, secondo la tua parola, secondo la tua parola, nel nome di Gesù, Dio, secondo la tua parola, secondo la tua parola. E ora vorrei chiederti, se tu sei vicino a una di queste persone, metti la tua mano sulla spalla di queste persone, sii la seconda barca, sii quella barca che si avvicina e inizia a condividere. Pietro credo che diceva: portate i pesi gli uni degli altri. Sta parlando di benedizioni e sta parlando di problemi. Sta parlando di benedizioni e sta parlando di problemi. Sì, quella barca che è disposta ad allontanarsi, anche se la chiamata era per un'altra persona, e semplicemente benedici, benedici in maniera molto semplice. Esci dal posto, avvicinati, rompi gli schemi, rompi gli schemi. Forza, alzati, ci sono delle persone che non hanno nessuno vicino. Avvicinati a queste persone, fagli sentire semplicemente la tua mano vicino. Digli: ehi, ci sono. Se hai bisogno, io ci sono. Inizia a uscire dal tuo posto. È già uno schema religioso che abbiamo, che puoi iniziare a rompere. Non serve fare la preghiera del secolo. Serve dirgli: io ci sono. Io sono con te. Io sono con te, non sei solo. Insieme, insieme siamo chiesa. Insieme torneremo sulla terra e realizzeremo la missione per cui siamo stati chiamati, per questa città, per questa regione. Nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Che lo Spirito Santo possa consolare il tuo cuore, che lo Spirito Santo possa alleggerire. Solo Lui sa farlo. È difficile spiegare la nostra frustrazione, ma Gesù può capirti, ma Lui può capirti. Raccontagliela. Rimani con Lui, non preoccuparti dei pesci, assicurati che ci sia Lui nella tua vita e nella tua famiglia. È questo che renderà la tua vita veramente miracolosa. Nel nome di Gesù.